per misurare la portata e l'incidenza degli interventi che modificarono nel corso del secolo XVIII, trasformarono anzi le strutture dello Stato di Milano, è necessario partire, come ha fatto la professoressa Klingenstein stamattina, da un esame della situazione, un rapido, sommario, scheletrico esame della situazione precedente alle riforme, una situazione che d'altra parte rimarrà quasi inalterata fino agli anni 40 del Settecento. Alcuni studi recenti dovuti a studiosi di grande valore come Aldo De Maddalena, Domenico Sella, Giovanni Vigo, ci hanno dato dell'età spagnola, quindi di riflesso anche del primo periodo austriaco, un'immagine piuttosto diversa dal quadro a tinte fosche consacrato da una lunga tradizione storico-letteraria, una tradizione che ha i suoi punti di riferimento, sappiamo tutti, in Pietro Verri, Carlo Cattaneo, Alessandro Manzoni. È un quadro che per l'essenziale è confermato anche dai lavori classici di Pugliese e Chabot. Questi studiosi, spostando il centro dell'attenzione dalla sfera politico-amministrativa alla sfera economica e dalla città alla campagna, hanno contrapposto al collasso secentesco delle manifatture e dei traffici urbani la vitalità del settore agricolo e hanno visto nell'afflusso di capitali e di capacità imprenditoriali verso la terra non il brodeliano tradimento della borghesia, ma invece, per usare un termine di De Maddalena, l'apertura di una nuova frontiera del progresso economico, una frontiera destinata a preparare di lunga mano le fortune industriali della regione. Di riflesso, di conseguenza, ne esce molto attenuato, anzi per certi versi quasi rovesciato, il tradizionale verdetto negativo sul malgoverno spagnolo. Sia pure inconsapevolmente, e questo leggo il giudizio di Sella che è condiviso da Vigo, i dominatori spagnoli prepararono il terreno alla grande opera di ristrutturazione e di livellamento che i loro successori austriaci avrebbero un giorno cercato consapevolmente di portare a compimento. Sotto i colpi del fiscalismo spagnolo, infatti, sempre è cito le parole di Sella, le vecchie strutture dello Stato cittadino, se non vennero di certo demolite, furono però duramente scosse. Le distanze fra città e campagna, per quanto non soppresse, vennero in più punti sensibilmente accorciate. E proprio in quel periodo sventurato cominciarono a farsi faticosamente strada certe idee di uguaglianza giuridica e di libertà economica indispensabili alla formazione di un clima di opinione favorevole alle riforme. Cioè Maria Teresa e Giuseppe II non avrebbero fatto altro che spazzare via le macerie di un edificio già in rovina. A prescindere dalla validità e dall'importanza dei risultati particolari su cui evidentemente non posso qui soffermarmi, è da dire che questi studi, se per un verso hanno così per fortuna portato un soffio d'aria nuova in una tradizione storiografica alquanto impigrita e hanno rimesso in discussione vecchie formule come quella della decadenza o quella più recente della rifeudalizzazione, hanno però, mi pare, configurato una, soprattutto per l'aspetto istituzionale che è quello che qui mi interessa, una situazione di cui è difficile trovare poi i riscontri effettivi. Cioè a me pare non pienamente convincente questa visione del cammino verso la modernità e l'industrializzazione come una specie di corsa a staffetta in cui ciascuno fa il suo tratto di strada e in cui l'anima rurale raccoglie la fiaccola caduta dalle mani della città. E qui sarebbe lungo discutere il perché, ma soprattutto mi sembrano sopravvalutati da Sella e da Vigo gli aspetti dinamici e progressivi di un assetto istituzionale che era indiscutibilmente rivolto in primo luogo a tutelare le posizioni di privilegio e la rendita parassitaria. Anzi, si può addirittura discutere sulla legittimità di usare il termine di governo spagnolo o per il primo periodo del Settecento governo austriaco. Questo a me pare il punto centrale. Quando Vigo scrive «La monarchia, anche una monarchia temperata e contraddittoria come quella spagnola, superò le fratture del mondo signorile, ponendo le basi per la costruzione dello Stato assoluto», ho l'impressione che attribuisca al potere monarchico una forza e una capacità di intervento che non possedeva. In Lombardia, prima delle riforme, in realtà non siamo di fronte a un potere unitario, tantomeno a un potere assoluto, sia pure tra virgolette, ma a un sistema di giurisdizioni particolari, di autonomie, di feudi, di privilegi, di immunità, sono parole di Giorgio Chittolini, su cui si reggono gli stati regionali sino quasi alla fine del XVIII secolo. Un equilibrio di forze e di poteri che appunto nello Stato regionale hanno trovato un luogo di mediazione, è un principio di organizzazione ma non di superamento. Sicché, per citare il pugliese, ancora sotto Spagna e persino ai primordi del regno di Maria Teresa, lo Stato conservava molti caratteri di una confederazione, o meglio di una unione di stati sotto il medesimo sovrano. Va subito precisato che, come di recente ha riconosciuto lo stesso Chittolini, di tutti i corpi particolari che vengono a comporre il quadro variegato delle istituzioni locali nello Stato regionale, la città è di gran lunga il principale, il vero grande interlocutore del potere centrale. La città, cioè quel ceto patrizio che della città, poi in tutta l'Italia centro-settentrionale, ha fatto il proprio centro di dominio, dominio diretto sulla città, dominio sulle campagne attraverso la concentrazione della proprietà terriera. Questo significa che né l'assolutismo, né il dualismo principe-ceti, la gerarchia di cui parlava il professor Béranger stamattina, sono categorie applicabili alla complessa realtà lombarda del 600 e del primo 700. Semmai si potrebbe parlare di una distribuzione del potere in tre livelli, o meglio fra tre sfere, solo in teoria subordinate gerarchicamente l'una all'altra, in realtà interferenti, complementari e spesso concorrenti e rivali. Rileggiamo un passo di Pietro Verri riferito al periodo spagnolo. Un governatore, scelto fra i più illustri soggetti della corona, veniva a risiedervi per 3 anni. Egli aveva il sommo comando dell'armata ed era luogotenente del monarca. Ma un forestiere, per lo più militare, ignorando la lingua, le leggi, i sistemi, alla testa di un governo che era un vero intricatissimo labirinto, nel quale i nazionali medesimi più volte trovavansi nell'incertezza, avendo da un lato il corpo rispettabilissimo del clero, che faceva valere i privilegi, le immunità, la giurisdizione propria, dall'altro il corpo potente del Senato e dei togati, padroni della vita e delle fortune private e pubbliche e degli affari. Con a fronte il corpo non meno poderoso dei nobili, che possedeva il segreto del cadastro delle terre, dei carichi delle terre, reggeva la vettovaglia della città, aveva lige tutte le arti, i mestieri, la mercatura e i cittadini tutti. Un governatore in tal sistema politico ritornava nella Spagna tanto ignorante delle cose milanesi quanto allorché vi era venuto. È un giudizio senza dubbio esagerato, che però ci restituisce con efficacia una situazione in cui, a parte quel vero e proprio Stato nello Stato che era la Chiesa, di cui io parlerò poco oggi non perché non ne riconosco l'importanza ma per limiti di tempo, vedeva il potere sovrano ridotto a poca cosa in confronto a quello determinante che era esercitato dal patriziato e soprattutto dal patriziato di Milano, che era presente in posizione predominante in entrambe le sfere contrapposte a quella sovrana, nella sfera delle magistrature, dove occupava la maggior parte dei seggi il Senato e i due magistrati camerali, ordinario e straordinario, e dall'altro lato controllava anche attraverso la presidenza della Confederazione dello Stato, e attraverso il peso che aveva il Consiglio del Quirinale di Milano, anche il potere civico. Si spiegano così, con questa duplice presenza del patriziato, non solo le sovrapposizioni di competenze tra sfera civica e sfera magistratuale o statale, per esempio in materia annonaria, in materia di viabilità, non solo la concomitanza di ambasciate inviate dallo Stato e dalla città di Milano a sovrani e pontefici, ma anche il fatto che nei momenti di crisi le magistrature tendevano a regolare il proprio comportamento su quello della città e non viceversa. Per esempio, nel dicembre 1745, quando l'esercito spagnolo si avviava a Milano, si avvicinava a Milano, che fu occupata per 3 mesi dagli spagnoli nell'inverno 45-46, fu il Consiglio Decurionale di Milano a decidere l'invio di una deputazione al campo nemico. E a questa si aggregarono poi 2 rappresentanti del Senato, solito a secondare l'esempio, come osservava il residente veneto. Si intende che questo peculiare rapporto che vigeva tra i sudditi e il sovrano si sostanziava anche di elementi ideologici sui quali non posso qui soffermarmi. Gabriele Verri, ancora il padre di Pietro, ancora nel 1760 scriveva: fra il principe ed i sudditi è scambievole il diritto che ne forma il legame. Spettavano al primo, al principe, l'alto dominio, proprio questi termini usa Gabriele Verri, l'obbligo della difesa, cioè, e la suprema facoltà legislativa. Ai secondi, o meglio ai loro magistrati, il compito di interpretare e di applicare le leggi. Questa latitudine dell'intervento giurisprudenziale attraverso l'opera dei grandi tribunali, come ha notato Raffaele Aiello in un importante studio recente, è una caratteristica della fase in cui si è arrestato in Italia la formazione dello Stato moderno. E i risultati, qui ho portato alcuni esempi, ma ne ricordo soltanto uno. Nel 1714 un sindaco fiscale si era messo a far sul serio contro i contrabbandieri nel Novarese e aveva perfino arrestato dei nobili. La Congregazione dello Stato subito invia al proprio agente a Vienna, aveva un agente fisso a Vienna, il Marchese Torelli, un'energica protesta diretta al principe Eugenio, allora ancora governatore dello Stato di Milano, in cui si trova scritto che sì, il contrabbando bisognava riconoscere che era un'attività illegale, però le leggi promulgate dal principe non hanno altro effetto che il bene pubblico e in conseguenza ne viene ordinata dal medesimo l'esecuzione secondo le circostanze. Le leggi andavano applicate secondo le circostanze. Queste brevissime considerazioni forse sono sufficienti a dare un'idea della natura e della forza degli ostacoli contro cui doveva urtarsi ogni tentativo di trasformare, di accentrare le strutture dello Stato di Milano. Per quel che riguarda la monarchia austriaca è ormai noto che in questa direzione la spingevano non solo nei domini ereditari ma anche nel territorio austro-boemi ma anche in Italia impellenti necessità finanziarie legate alla difesa del rango di grande potenza quasi inaspettatamente raggiunto tra 6 e 700, e ricordiamo che una buona metà dei 90 anni in cui durò il dominio austriaco a Milano nel 700 sono anni di guerra. Ma proprio perché almeno da 2 secoli le esigenze militari costituivano uno stimolo ricorrente alle riforme, il problema anche per la Lombardia, oltre che per i territori austro-boemi, è spiegare perché Maria Teresa sia riuscita laddove i suoi predecessori avevano fallito. Sappiamo da molti studi, anche dalla relazione letta questa mattina dalla professoressa Klingenstein, che per quello che riguarda i territori austro-boemi i fattori decisivi furono in primo luogo la gravità della crisi che negli anni 30 e 40 mise in forse la sopravvivenza stessa della monarchia asburgica, ma anche la collaborazione preziosa di un gruppo di uomini i Bartenstein, ricordato stamattina dal professor Béranger, Koch, gli Haugwitt, che erano diversi per origine e mentalità dallo Stendehadel e dagli emigrati spagnoli che avevano circondavano Carlo VI. E in terzo luogo nell'ampia diffusione di correnti intellettuali e ideologiche verso la metà del secolo, che è consuetudine comprendere sotto la generica denominazione di giuseppinismo. Nella situazione periferica in cui si trovava lo Stato di Milano doveva rivelarsi essenziale anche un'altra condizione, la presenza in loco di rappresentanti regi muniti della necessaria autorità, diversi da quei governatori a cui alludeva prima Pietro Verri, dotati di un'approfondita conoscenza della situazione locale e di una decisa volontà di imporre le direttive sovrane contro ogni ostacolo. E ce lo dimostrano le vicende degli ultimi anni del regno di Carlo VI, durante i quali fu compiuto un serio sforzo di rinnovamento nei territori rimasti all'Austria in Italia, uno sforzo troppo trascurato dagli storici. Qui mi manca il tempo per ricordarne le varie componenti, la sostituzione del Consiglio d'Italia con un organo, del Consejo de España con un organo più snello, il Consiglio d'Italia, la unificazione dei tre ducati di Milano, di Mantova, Parma e Piacenza sotto un unico governatore col nome di Lombardia austriaca, il tentativo anche di sopprimere il magistrato straordinario, unificare e rammodernare, razionalizzare l'amministrazione finanziaria e anche il tentativo, fallito anch'esso, di riprendere l'opera del censimento. Ma facciamo un solo esempio. Il 10 aprile 1737 due regi dispacci ordinavano un'indagine approfondita sulle onoranze, sulla riscossione e il riparto delle onoranze, che erano quelle somme percepite a vario titolo dai magistrati e anche dai subalterni per esempio la stipulazione di contratti con gli appaltatori delle imposte e così via. Allora, questi regi dispacci prescrivevano di sospendere il pagamento delle onoranze ai magistrati e di concentrarle per ora in una cassa separata fino a nuovo ordine. Questa decisione fu seguita da una levata di scudi generale. Soprattutto il magistrato ordinario, con una consulta del 20 maggio 1737, difendeva il sistema delle onoranze come consacrato da una lunga tradizione, che per decorso di più secoli indurrebbe da sé sola il migliore e più sicuro titolo che desiderare si potesse. Ma vengono poi messi subito in campo quegli stessi argomenti di natura tratti dal repertorio giusnaturalistico e contrattualistico meglio e dalla antica sapienza giuridica che aveva sempre contrassegnato le magistrature milanesi. Considera infatti la legge nella collazione ed accettazione dei ministeri costituito uno contratto tra il principe ed il suddito e certamente oneroso nella corrispondenza della fatica col premio, onde vuole non meno obbligato il suddito alla prestazione della sua opera a servizio e beneficio del principe che tenuto il sovrano alla manutenzione dell'intero promesso annuale stipendio a favore del concessionario. Ora, le onoranze, si argomentava, facevano parte sicuramente dello stipendio, tant'è vero che erano compresi nel calcolo della mezzannata. Dunque chiaro si conosce essere tolto l'arbitrio a qualunque benché minima diminuzione. Queste argomentazioni del magistrato ordinario furono accolte anche dal Consiglio d'Italia. All'imperatore non rimase che battere in ritirata di fronte a questo fronte unito. E in effetti non aveva molto senso, gli stipendi in sé erano irrisori, non aveva senso togliere le onoranze senza aggiornare gli stipendi. Vediamo qui, tocchiamo con mano, questa mancanza della conoscenza della situazione locale che vanificava, l'aveva già vanificato sotto la Spagna, qualsiasi serio tentativo di rinnovamento. Naturalmente ciò che Carlo VI non fece, non poté fare, fu fatto, sappiamo, da Sotto Maria Teresa e Giuseppe II. L'immagine più diffusa di questo cinquantennio di riforme è quella di un processo lineare e ininterrotto, di un progressivo rafforzarsi ed estendersi della sfera di intervento governativa dagli anni intorno alla metà del secolo fino alla morte di Giuseppe II. E al suo interno è consuetudine contrapporre il cauto e graduale procedere di Maria Teresa, ispirato a un sano empirismo e un certo rispetto per le tradizioni locali, alla furia razionale e livellatrice del decennio giuseppino, quando venne meno quella che Valsecchi ha chiamato una felice collaborazione tra le migliori forze locali e gli impulsi riformatori di Vienna. A un esame ravvicinato, però, a mio parere, il cammino delle riforme si rivela più tortuoso e accidentato di quanto non sia parso molte volte. Dobbiamo, secondo me, distinguere tre ondate riformatrici, ciascuna con propri caratteri e anche propri protagonisti, e ciascuna seguita da un periodo più o meno lungo di riflusso o di assestamento. La prima di queste fasi va dal 1742 al 53 ed è dominata dalla figura di Gianluca Pallavicini, prima delegato regio, poi plenipotenziario, ministro delle finanze e infine governatore dal 50 al 53 della Lombardia austriaca. Una figura di grande aristocratico, fedele servitore dell'impero, dotato, come ha detto Venturi, della duplice esperienza della spada e del denaro e di un attivismo che lo faceva paragonare a un mulino che macina sempre. Fin dal 1744-45, nel pieno cioè della guerra di successione austriaca, che aveva portato come sempre a un drammatico aggravamento della situazione finanziaria e anche a una crescente dipendenza del governo lombardo da quei gruppi che detenevano i cordoni della borsa, i circoli mercantili e finanziari, la congregazione dello Stato. Ecco, fin da allora Pallavicini aveva presentato a Maria Teresa, per il tramite del segretario di gabinetto Koch, con cui intratteneva un carteggio segreto pubblicato dallo Stoia, un vasto piano di riordino delle finanze, che prevedeva, fra l'altro, la ripresa e il rapido compimento delle operazioni catastali interrotte nel 1733 in seguito all'occupazione gallo-sarda, la soppressione del magistrato straordinario e il riordino degli uffici finanziari, la concentrazione in una sola tesoreria di tutte le entrate e le spese, la liquidazione del debito pubblico mediante l'erezione di un banco dotato di fondi propri e controllato dai creditori stessi dello Stato. Successivamente a questi originari progetti si aggiunsero anche un programma di sgravi fiscali sui generi di prima necessità, il progetto della fondazione di una casa di correzione e di un albergo dei poveri, traendo i fondi dalle risorse delle opere pie, e l'istituzione di due fiere annuali, provvedimenti tutti diretti a promuovere la rinascita delle manifatture e del commercio, ispirati a un'ottica mercantilistica, derivata anche, oltre che dalle letture di Pallavicini, che cita nelle sue consulte, per esempio, sui Ligoban, anche dalla pratica degli affari, che era propria di questo patrizio genovese. Di queste iniziative soltanto la riforma delle magistrature camerali poté essere portata a compimento alla fine degli anni 40, nel 49, durante il governatorato di Ferdinando Bonaventura di Harra, che era stato nominato nel 47 contro le aspettative di Pallavicini. Era un momento di disgrazia del Pallavicini a Vienna. Accanto allo sfoltimento dell'organico e alla concentrazione delle mansioni, gli aspetti più appariscenti della riforma del 49 furono la proibizione assoluta della vendita degli uffici e della facoltà di sostituzione dei titolari, cioè dell'uso invalso a Milano da parte dei proprietari di uffici di farsi sostituire da un altro dal quale poi si facevano pagare una pensione, l'altro si rifaceva evidentemente sugli utenti dell'attività dell'ufficio. La rigida regolamentazione dei diritti dovuti per le patenti e gli altri atti amministrativi e l'abolizione di tutte le onoranze, quelle che invano aveva tentato di abolire Carlo VI, e prestazioni, tanto solite farsi per via dei ricettori, come le cosiddette ad manus. Era la fine, o perlomeno l'inizio della fine, di quel rapporto personale del funzionario col principe, di quella gestione privatistica dell'ufficio inteso come beneficio, che avevano caratterizzato la burocrazia, tra virgolette, lombarda per secoli. Tuttavia l'opposizione alle misure di Pallavicini non disarma, sappiamo come le operazioni della giunta per il censimento presieduta da Pompeo Neri e nominata in quello stesso 49 procedessero con difficoltà di fronte alle fortissime resistenze della città di Milano e della Congregazione dello Stato, come anche l'altra giunta per il mercimonio creata dal Pallavicini nel 51 avesse vita difficile, e i progetti per esempio relativi alla casa di correzione e albergo dei poveri dovettero essere rinviati, e anche il contratto stipulato con i fermieri nel 1751, una nuova compagnia di fermieri, di finanzieri capeggiata da un bergamasco, Antonio Greppi, che nelle intenzioni di Pallavicini doveva rompere il tradizionale legame tra circoli finanziari della capitale e oligarchia patrizia, invece si trasformasse rapidamente in un nuovo formidabile centro di potere, di interessi, capace di influire direttamente, di far sentire la propria voce direttamente a Vienna. Questo riflusso, questa resistenza, diciamo meglio, alle misure di Pallavicini si trasforma poi in vero e proprio riflusso sotto la plenipotenza del Cristiani tra il 53 e il 58, quando perfino l'attuazione del censimento appare in forse. Tanto che nel 58 il segretario del Senato Saverio De Colla poteva, in uno scritto destinato al Firmian, che era dell'ottobre 58, dedicato a Firmian, che era il nuovo plenipotenziario nominato per lo Stato di Milano, poteva tracciare un ritratto lusinghiero della Costituzione lombarda, esaltata in termini quasi identici a quelli che Martino De Colla, suo padre, aveva usato 40 anni prima. Con l'arrivo del Firmian a Milano, Firmian nominato nel 58 ma arriva solo nel giugno del 59, prende l'avvio una seconda e più ampia ondata di riforme, destinata a concludersi nel 71 con quella che il Kaunitz stesso chiamò una rivoluzione generale del sistema delle magistrature lombarde. Anche qui devo limitarmi a qualche cenno, mi sono occupato più diffusamente di questo periodo in un articolo recente. Devo dunque qualche cenno per dire soltanto che mi sembra da rimettere in discussione quel nesso di causa-effetto, o perlomeno quel rapporto che è necessitante, che è stato istituito molto spesso tra quella che Venturi ha chiamato la primavera dei lumi in Lombardia, lo sboccio dell'illuminismo lombardo col caffè, con le opere maggiori dei Perri e di Beccaria negli anni 60, tra il 63 e il 64, 65, e la ripresa appunto del moto delle riforme. A ben guardare anche qui le date non coincidono. L'invio a Vienna delle considerazioni sul commercio dello Stato di Milano di Pietro Verri, fino allora un uomo sconosciuto alle sfere di governo, è dell'estate 63 e i primi fogli del caffè sono del 64, come pure il trattato dei delitti e delle pene. Per l'attuazione del censimento l'anno decisivo è il 1760. Entra in vigore il 1 gennaio 1760 e si tratta di una svolta di importanza fondamentale, non solo per i suoi aspetti ben noti di perequazione tributaria, ma anche per l'instaurazione di una prima forma di controllo statale sulle amministrazioni locali. e sono del 61-62 i primi progetti per una conduzione mista della ferma e anche l'avvio dell'offensiva, sempre di questi primi anni, 60, sono l'avvio è l'avvio dell'offensiva contro i privilegi e le immunità della Chiesa. Determinata offensiva ispirata dalla, come scriveva Kaunitz al cardinale Albani il 17 gennaio 63, dall'intenzione di Maria Teresa di rimettere in vigore le ragioni che le competono e di ristabilire anche nei suoi stati d'Italia quell'equilibrio tra il sacerdozio e l'impero che hanno già ristabilito gli altri principi nei propri domini. Dunque dobbiamo cercare altrove le origini del nuovo ciclo di interventi di riformatori. In primo luogo dobbiamo cercare queste origini ancora una volta nella guerra, la guerra dei sette anni, che se risparmiò in il territorio italiano a differenza delle precedenti guerre di successione, non fu meno esigente delle precedenti in fatto di risorse finanziarie e anche non fu meno grave nelle sue conseguenze economiche. Proprio il ritiro dell'armata è causa di difficoltà economiche e di malcontento in Lombardia. Ed era diffusa generalmente negli ultimi anni della guerra dei sette anni l'aspettativa di nuovi cambiamenti. Pietro Verri stesso il 23 novembre 62 scriveva all'amico Giambattista Biffi: «Suivant les apparences, on va penser à des réformes. On y a toujours pensé, depuis des siècles, constamment, après les guerres. Les dettes prodigieuses de la maison d'Autriche, maintenant, le rendent indispensable». In secondo luogo, ciò che caratterizza le riforme degli anni 60 rispetto al periodo del Pallavicini, che aveva condotto quasi da solo la battaglia contro le forze della conservazione, è la formazione di una nuova classe di governo, di un nuovo ceto di governo, devoto alla monarchia e impregnato di una cultura, o se preferiamo dire così, di una ideologia diversa da quella umanistico-giuridica che era patrimonio tradizionale del ceto dirigente lombardo, del patriziato. Ma questa cultura o ideologia non è, come si è quasi sempre pensato, quella dei Verri e di Beccaria, tutta orientata verso l'empirismo, il sensismo, l'utilitarismo anglo-francese, verso Locke, Hume, Levesius, Rousseau, tutta tesa all'affermazione dei valori individuali, delle libertà civili e delle libertà economiche. Questa dei Verri di Beccaria, io l'ho definita un po' così, con voluta esagerazione, una sorta di fuga in avanti rispetto al problema centrale della monarchia asburgica, che era l'affermazione dell'autorità dello Stato contro la Chiesa e contro i privilegi locali e cettuali. Era un liberalismo, quello dei Verri di Beccaria, lo notava già Carlo Morandi, che ha in sé i germi del conservatorismo e che è particolarmente debole o indifferente di fronte al problema dello Stato. Quella che possiamo chiamare invece la cultura delle riforme era, se si vuole, una cultura meno moderna, meno avanzata. Ma proprio per questo più funzionale alle esigenze dell'assolutismo illuminato, fenomeno, come spesso è stato rilevato, che è proprio delle aree arretrate d'Europa. Una cultura che era composta di molti e svariati filoni, su cui non è certo possibile qui indugiare: il Reform Catholicismus muratoriano, ricordato anche stamane, le correnti regalistiche, giansenistiche e da ultimo febroniane, il giusnaturalismo di Wolf Thomasius, il neomercantilismo, il cameralismo austro-tedesco. Filoni che però avevano in comune l'esaltazione dello Stato come supremo ordinatore e tutore del bene pubblico, del principe come padre dei suoi popoli, responsabile della loro salute materiale e spirituale. I rappresentanti dello Stato e del principe nella Lombardia degli anni 60 non sono se non marginalmente i soci dell'Accademia dei Pugni del Caffè. Dei 15 uomini che fra il 65 e il 70 fecero parte del Supremo Consiglio di Economia, una reincarnazione lombarda dei grandi organi dell'assolutismo prussiano e asburgico, sia per la vastità delle sue attribuzioni, sia anche per la caratteristica commistione di economia e finanza, solo due, Pietro Verri appunto e Angela Maria Mantegazza, che morì subito poi, escono dalle file del patriziato. Gli altri sono tirolesi, austriaci, toscani, genovesi, lorenesi o anche lombardi, ma non appartenenti all'ordine patrizio, ma lombardi nobili o plebei che fossero, provincializzati da lunghi soggiorni all'estero e familiari con i problemi tecnici e amministrativi. Lo stesso discorso si può fare per gli altri due centri propulsori delle riforme creati nello stesso torno di tempo, 65, la deputazione agli studi e la giunta per le materie ecclesiastiche e miste, poi giunta economale. A dare il tono alle riforme sono elementi come i toscani Antonio Pellegrini e Nicola Pecci, l'istriano Gian Rinaldo Carli, che a torto viene spesso assimilato agli illuministi lombardi, era di formazione molto diversa, il lorenese Stefano Lottinger o il milanese anche Michele D'Averio, uomini quasi tutti di modeste fortune e di non eccelso rango sociale, anche quando erano nobili, condizione che a Milano contava ben poco di fronte a quella di patrizio, e che potevano sperare avanzamento e prestigio soltanto dal servizio dello Stato, dal servizio della monarchia. Per non parlare naturalmente dei massimi responsabili dell'amministrazione italiana, del Firmian in primo luogo, e poi dei potenti referendari del Dipartimento d'Italia a Vienna, Dipartimento d'Italia creato nel 57, come ha ricordato stamattina la professoressa Klingenstein, cioè Luigi Giusti e il tirolese, il veneziano Luigi Giusti e il tirolese Josef von Spergs, che in realtà molto più del Kaunitz, il quale era troppo assorbito dai problemi generali della monarchia per poter dedicare tempo e energie sufficienti allo Stato di Milano, molto più del Kaunitz sono quelli che tirano le fila del movimento riformatore. E proprio questa diffusione nelle sfere di governo, nell'apparato amministrativo delle nuove idee stataliste sul bene pubblico, come giustificazione e fine dell'autorità sovrana, spiega perché, pur rimanendo sempre in primo piano le esigenze finanziarie, però l'intervento dello Stato si estenda ora a settori che prima erano lasciati all'iniziativa locale o ecclesiastica o privata, l'istruzione, l'assistenza ai malati e ai poveri, il regime annonario e corporativo e via discorrendo. In tutti questi campi Giuseppe II non farà che trarre le logiche conseguenze delle premesse poste negli anni 60. È stato ricordato, mi pare stamattina, come perfino la punta più avanzata dell'ingerenza giuseppina nel campo della formazione del clero, cioè l'istituzione del seminario generale di Pavia, dei seminari generali in tutta la monarchia, si trova già chiaramente anticipata agli inizi degli anni 70 e ne troviamo anche tracce nella corrispondenza Kaunitz-Firmian. Sul piano istituzionale questo secondo periodo di riforme si chiude con lo scioglimento della ferma e il nuovo regolamento delle magistrature centrali adottato nel 71. Tutti gli affari giudiziari concentrati nel Senato, cioè si attua solo ora quella separazione della giustizia che a Vienna era già stata fatta nel 49. Tutti i compiti economici finanziari concentrati invece nel nuovo magistrato camerale, che non è il continuatore del vecchio, ma è il continuatore del Supremo Consiglio di Economia, e infine la funzione di controllo contabile e di tesoreria affidata a una Camera dei Conti di nuova istituzione. Il patriziato, che aveva cercato di opporsi con tutti i mezzi a queste trasformazioni, fino a mobilitare la piazza. Nel 66 a Milano trasparivano germi di insurrezione. Usciva dalla prova sostanzialmente sconfitto. Tanto che Luigi Cristiani, figlio di Beltrame ed esponente tipico del nuovo ceto di governo, educato a Vienna, poteva proporre nel febbraio del 71 al plenipotenziario di dare maggior spazio nelle cariche, come ha ricordato Mozzarelli, alla primaria nobiltà, ritenuta ormai politicamente inoffensiva. E ora sì, entrano nelle pubbliche carriere esponenti del patriziato, tra questi anche molti amici di Verri, ex amici di Pietro Verri come Beccaria, Longo, Lambertenghi, Secco, ma entrano non più come esponenti di un ceto legittimato a governare dalla nascita, bensì per le loro qualità personali a titolo individuale e in considerazione delle loro attitudini a conformarsi a un modello di funzionario che è imposto dall'alto. Sugli anni 70 non ho tempo di soffermarmi, e sono anni caratterizzati così da un certo assestamento della situazione e da una certa distensione nei rapporti tra governo e aristocrazia, tratta dalla corte dell'arciduca Ferdinando e via di seguito, e anche sul fatto su cui sarebbe interessante soffermarsi di un passaggio dalle esasperate punte mercantilistiche degli anni 60 a un maggiore liberismo in fatto di regolamenti economici che viene incontro a determinate esigenze della classe proprietaria lombarda. Ecco, la terza ondata di riforme è naturalmente il decennio giuseppino. Credo di dovermi qui ancora più limitare a pochissime cose, tre cose. Il periodo giuseppino appare, lo dicevo già prima, come una continuazione, in forme se vogliamo più sistematiche, più conseguenziali, degli indirizzi già chiaramente presenti nel regno di Maria Teresa. E qui mi permetterei di sentire, o perlomeno di porre, da quello che diceva stamattina il professor Béranger, o perlomeno di porre questo problema, se sia più giusto vedere una continuità nelle forme di governo austriache fino a Maria Teresa compresa, e vedere la rottura all'inizio del regno di Giuseppe II, o se invece la rottura non vada collocata prima e invece di continuità sia necessario parlare tra Maria Teresa e Giuseppe II. Questo lo vediamo un po' in tutte le sfere, è inutile soffermarsi. D'altronde proprio la similarità delle misure che sono prese in Lombardia con quelle che riguardano le altre regioni dell'impero può esimerci da questo. Possiamo brevissimamente dire che semmai in due settori particolarmente fu avvertita dai contemporanei una svolta. Il settore delle amministrazioni locali, in cui anche quelle forme di autogoverno erano state lasciate in piedi da Maria Teresa, in particolare i consigli decurionali, vengono sostanzialmente esautorati a favore di forte accentramento anche a livello locale. Gli intendenti di Giuseppe II sono chiaramente una anticipazione, involontaria ben inteso, dei prefetti napoleonici per l'estensione delle loro attribuzioni e per la loro funzione di cinghia di trasmissione tra l'autorità centrale e tutta la vita locale. E l'altro settore è quello dell'amministrazione della giustizia, con l'abolizione del Senato, il secolare baluardo dell'autonomia lombarda, dell'autonomia patrizia, e l'abolizione anche delle nuove costituzioni. E naturalmente raggiunge il culmine sotto Giuseppe II anche quel processo di burocratizzazione, di creazione di una burocrazia anche come ceto separato, con propri criteri, propri parametri di valore e regole di vita, che già era cominciata nel periodo precedente. E mi permetto di citare, perché la trovo divertente, una relazione dell'intendente di Bozzolo, una delle nuove province create da Giuseppe II che ruppe il vecchio ordinamento, del 29 gennaio 1787. Parla dei propri dipendenti, degli impiegati dell'intendenza. Sono così occupati che non solo non hanno tempo di impiegarsi in altri oggetti, ma che poco ne hanno anche per i bisogni e i comodi della vita. La loro condotta è esemplare, né forzata, ma di indole e di carattere. Se hanno qualche momento di respiro in giorno di festa, lo impiegano a fare una passeggiata tutti assieme. Stanno lontani dagli oziosi del paese e dai bagordi e formano il loro trattenimento con lo stare in ufficio, associandosi per discorrere d'affari col loro intendente. Anche da questa breve lacunosa esposizione Leggo qui soltanto la conclusione, tralasciando tutto il resto, emergono le linee dunque di una rivoluzione dall'alto, che sembra quasi costituire la prova generale, sul piccolo teatro della Lombardia austriaca, del dramma che nell'età rivoluzionaria napoleonica investirà tutta quanta la penisola italiana. Per quest'area limitata è anzi possibile considerare in una prospettiva unitaria quella della modernizzazione delle strutture statuali, il secolo e passa che va dai primi decenni del Settecento fino alla Restaurazione. E in tale prospettiva tornare a porre il problema da cui eravamo partiti di un possibile rapporto tra l'evoluzione economico-sociale e il mutamento del quadro istituzionale. Di un influsso determinante della prima sul secondo, cioè dell'evoluzione economico-sociale sul quadro istituzionale, dopo quanto si è detto, mi pare sinceramente che non sia il caso di parlare. È da confinare tra i miti storiografici la tesi, sostenuta con diverse accentuazioni in passato da Ettore Rota, Carlo Morandi e altri, di una borghesia indigena o aristocrazia imborghesita che si fa nel Settecento suggeritrice e protagonista del moto riformatore. Parafrasando una formula di Colin Lucas, che la applica alla Rivoluzione francese, si potrebbe dire, semmai il contrario, che non fu la borghesia a fare le riforme, ma furono le riforme asburgiche e napoleoniche, a fare la borghesia. Se però siamo disposti a definire borghesi gruppi sociali che vivevano non di profitto, ma di rendita, o di stipendio, o di tutti e due insieme. Cioè, da un lato il fronte comune dei proprietari terrieri, nobili e non nobili, che si andava tendenzialmente formando nei decenni a cavallo tra 7 e 800, un fronte in cui i Veri e i Melzi, ma anche nell'età napoleonica i Cuoco e i Romagnosi, vedevano la classe naturalmente votata alle funzioni di governo. E dall'altro lato i funzionari, i professionisti, gli intellettuali, la cui crescita numerica, economica, ideologica è l'altro grande fenomeno sociale nei decenni a cavallo tra 7 e 800. Assai più problematico è misurare l'incidenza delle riforme sullo sviluppo economico. Una lunga tradizione di studi ha posto l'accento sugli effetti positivi che ebbero l'attuazione del catasto, la liberalizzazione del commercio dei grani, la lottizzazione dei beni comunali, la vendita dei beni confiscati alla Chiesa, nel promuovere una maggiore mobilità del mercato fondiario e un migliore sfruttamento del suolo. Ma altri hanno notato che fattori propulsivi non meno importanti furono il richiamo dei mercati internazionali e la favorevole congiuntura dei prezzi. E lo sviluppo embrionale di una base manufatturiera nella fascia settentrionale della regione, della Lombardia, seguì strade troppo diverse da quelle indicate dagli interventi mercantilistici del governo asburgico per permetterci di istituire un qualunque nesso diretto. Forse anche qui dobbiamo per ora, in attesa di nuove ricerche, accontentarci di vedere il contributo più sicuro delle riforme al progresso economico nell'incivilimento. Una bella parola cara agli illuministi e agli scrittori del primo Ottocento, oggi non più usata. Cioè di vedere questo contributo in termini di certezza del diritto, di abolizione dei privilegi di nascita e di ceto, di educazione delle plebi, di instaurazione di un clima d'opinione favorevole alla libera intrapresa e al lavoro produttivo. Spero di non avere...